cenere di stelle cade giù dal cielo, minuscole particelle si posano sul seno e portano con loro la luce del mondo intero, tutti i suoi misteri, ora tutto è chiaro. Vedo oltre ogni firmamento, navigo oltre ogni tempo, tra i disegni di Leonardo, tra le sfingi di ogni Egitto, tra gli inquisitori del Cinquecento, alla corte di Re Lorenzo, a Rialto con Vivaldi, con Marco Polo negli Orienti. Cenere di stelle cade giù dal cielo, minuscole particelle si posano sul seno e portano con loro la luce del mondo intero, tutti i suoi misteri, ora tutto è chiaro. Vedo Don Milani dare le lezioni, Padre Pio che ride e gioca coi bambini, Giordano Bruno posa, rose sui balconi, Garibaldi sposa Anita mentre tuonano i cannoni, i cecchini a Sarajevo, i cosacchi oltre il Reno, Chopin suona il piano mentre Gandhi mi dà la mano, Lady Diana e Madre Teresa ballano un tango, Paolo di Tarso illumina il mondo. Cenere di stelle cade giù dal cielo, minuscole particelle si posano sul seno e portano con loro la luce del mondo intero, tutti i suoi misteri, ora tutto è chiaro. Vedo Gesù a Nazareth con Maddalena passeggiare, vedo la sua croce, lo vedo sanguinare, l'Africa in ginocchio, violentata da coloni, vedo bombe atomiche in mano a degli scemi, vedo i ghetti a Varsavia voluti dai nazisti, a Gaza a cielo aperto un popolo senza visti, nella Cina della saggezza perdere la faccia, lo zar della Russia uccidere per una goccia.